15 gennaio Orvieto, 1941. Stasera abbiamo preso una radio clandestina italiana. Trasmette notizie di propaganda antifascista. Introduce la trasmissione al canto dell'inno di Garibaldi e poi aggiunge: "Parla Radio Italia". Sono parole terribilmente emozionanti. Eravamo tutti, io specialmente, eccitatissimi. Noi avevamo come paura di credere alla verità di quanto accadeva. Dunque i nostri giovani sono stati capaci di riscuotersi. Dunque si sono organizzati. E hanno avuto l'audacia di lanciare la loro sfida direttamente sul viso degli oppressori. Sarebbe stato bello. E perciò abbiamo dubitato. Forse si tratta di propaganda inglese, forse sono italiani fuoriusciti che trasmettono direttamente dall'estero. E forse sono spie qualunque prezzolate dall'Inghilterra e dall'Italia. Eppure vi è qualcosa nelle loro voci fresche ed energiche che sembra leale. Vi è un'insistenza accurata di scandire le loro parole, come per imprimerle nel cuore degli ascoltatori. E vi è una così nobile e dolorosa verità nelle cose che dicono, una compostezza così austera e consapevole, che escluderebbe la venalità e il mestiere. Però la propaganda inglese è così abile. Non bisogna lasciarsi illudere.